Brian e Harper, intorno alla fine del secolo scorso, hanno studiato a fondo il comportamento dei telegrafisti. Hanno scoperto che questi non solo devono sviluppare particolari abilità motorie per battere singole lettere, sillabe, parole, ma anche un insieme di automatismi linguistici di ordine superiore relativi alle combinazioni delle parole nel discorso. Questi automatismi ovviamente sono diversi caso per caso, non se ne può parlare di certo come di un qualcosa di fisico uguale per tutti coloro che li sviluppano. Il medesimo carattere, dunque, viene battuto con modalità diverse a seconda della posizione che occupa, e si potrebbe assimilare questa differenza alle inflessioni con cui ciascuno di noi, pur parlando la stessa lingua, caratterizza la propria espressione orale. In ragione di ciò, un buon telegrafista sa riconoscere un collega semplicemente dalle sue battute, come se in quel segnale in vero minuscolo ci fossero racchiusi gli elementi costitutivi di uno stile. L'uomo allora affina le proprie capacità discriminative anche nei confronti di cose che a prima vista possono apparire come un unico flusso costante. E spesso è proprio la discriminazione che sollecita l'applicazione di un valore. E al ricordo e dalla riflessione conseguente ci sono arrivato dopo aver preso atto di alcune innovazioni televisive in materia di applausi, no? Più volte nel recente passato, e praticamente da quando l'hanno inventati, abbiamo stigmatizzato l'ormai inveterata pratica di inserire applausi durante una trasmissione televisiva. Soprattutto in caso di spettacoli leggeri forse per chi li fa, ma pesanti e pesantissimi per me, si è ritenuto opportuno obbligare il pubblico presente ad applaudire o addirittura inserire una banda registrata di applausi preconfezionati, pronti a dimostrare che il divertimento e il consenso è tanto e comunemente condiviso. Ebbene, per lunghi anni in cui ho maledetto questo barbaro viatico alla subordinazione di massa, per anni l'applauso per me era sempre e comunque l'applauso, un applauso indiscriminato ed indiscriminabile, uguale qui e uguale là, valevole per tutte le reti televisive, per tutti quegli spettacoli di un certo tipo che per il proprio successo dovevano ricorrervi. L'altro giorno invece ho capito che, dichiarandola chiusa e ideologicamente chiara, avevo valutato con superficialità la questione, che nel mio disinteresse era evoluta, sinistramente evoluta. Mike Buongiorno e la ruota della fortuna, una di queste immonde riffe che segnano le contraddizioni della nostra vita associata, elargendo milioni come fossero noccioline in un momento in cui al cittadino vengono negati diritti elementari, iniziative perfettamente coerenti peraltro con la politica economica dell'attuale governo, che per risolvere, si fa per dire risolvere, la crisi approva un numero sempre maggiore, non dico di pianificazioni economiche, ma bensì di lotterie nazionali. Ruota della fortuna e Mike Buongiorno, dicevo, che alla mia modesta cultura, ecco, era sempre sfuggita questa ruota della fortuna, e che soltanto per fortunato caso, un fortunato caso del telecomando, ho potuto avvicinare, conoscere ed analizzare. Ivi gli applausi sono asincronici, baccanosi, osannanti, applausi regolarmente plaudenti, sì, ma prodotti per modalità esecutorie diversificate, leggermente spaiati, polifonici, ove il monocorde si accoppia al battito irregolare, ove al colpo si accompagna al lazzo, ove l'entusiasmo è tale che la spontaneità della sua manifestazione è ingovernabile. L'applauso lineare sembrerebbe finito, Di fronte a Mike Buongiorno, sempre che ci sia qualcuno, non c'è più una massa che risponde all'unisono e con una tecnica. No, ma c'è un insieme di individui, un insieme che risponde secondo i complessi algoritmi che dovrebbero riflettere le complesse loro personalità e con più tecniche. Di fronte a Mike, sempre che ci sia qualcuno, c'è il vivo, il libero, quello che si diverte, che gode per sua scelta, il partecipe, il ruspante, tanto ruspante da lambire il disturbo. Non te la vedi più questa gente che applaude, sempre che ci sia, bella seduta e composta, tutta seduta uguale, diligenti, obbedienti. No, te la vedi quasi stravaccata e godereccia, tutta presa dal Mike che è proprio bravo, dal Mike che ne regala di lire, dal Mike che fa quelle sue belle gaffe che ci piacciono tanto. Te la vedi che se la ride a pacche sulle spalle, perché? Perché ha già familiarizzato. Ecco, il segreto ideologico credo consista proprio in questa rivoltante familiarità, che come uno schema da conseguirsi a tutti i costi viene imposta al rapporto che il telespettatore, grazie alla mediazione di quei presunti presenti e plaudenti, intrattiene con il teleschermo. A conferma di ciò potrebbe essere chiamato per esempio quello, in altre trasmissioni, quello che finisce le sue puntate sempre circondato da una pletora di gente comune che si presta al bagno di folla conclusiva, con battutina, stretta di mano, grazie dei complimenti, sforzo fisico vero ed evidente per cercare di andarsene, no? Di raggiungere una sua agognata privatezza che senza che lui ci possa far niente, l'approvazione, l'affetto della gente gli negano. Oppure quello che la fa lunga con le voci al telefono, mirando ai particolari dell'intimità e alludendo con l'indiscrezione di chi, per il rapporto che c'è e che è dato per scontato, può proprio permetterselo lui, senza offesa appunto per la familiarità che corre fra tutti loro, burattini e burattinai, beneficiati e filantropi, vittime e carnefici uniti nella sghignazzevole kermesse della vita televisiva. I telegrafisti, quella familiarità che consente loro di cogliere le più fini intermittenze dell'animo dietro le intermittenze del segnale, i telegrafisti quella familiarità se la costruiscono giorno per giorno, in un lungo apprendimento, in una protratta attenzione reciproca, come di tutti noi. Nell'universo televisivo invece il rapporto è fasullo e la familiarità che ne nasce è cosa di un attimo, un prefabbricato per gli esercizi coatti di una socialità deviata che non costa fatica a nessuno se non ai falsari fuori scena, il padrone, il regista, lo sponsor, l'abile architetto dei marchingegni ideologici, il direttore di quell'orchestra di pari a umani che deve applaudire a comando.